giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sergio Mattarella in Carnia su invito dell'ANPI per ricordare gli 80 anni della zona libera, il programma della visita del Presidente. Scuola, insegnanti in attesa della pubblicazione delle graduatorie per l'assegnazione delle sedi, graduatorie che però sono in ritardo. Concorso da rifare alla Camera di Commercio di Pordenone Udine per assumere 8 persone, caos codici per l'errore di una società incaricata. 2.500 persone controllate, 6 arresti e il bilancio della stazione estiva di polizia di Lignano, dove per tutto agosto saranno operativi anche i colleghi austriaci. Ponte di Ferragosto, di esodo e contro esodo, 3 le giornate da bollino rosso, 1 sabato 17 con bollino nero in A4 direzione Venezia. La goletta verde di Lega Ambiente promuove le acque del Friuli Venezia Giulia, ma ancora una volta segnala l'inadeguatezza del depuratore di Lignano. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. La Carnia si sta già cominciando a preparare per la visita di metà settembre del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà ad Ampezzo per celebrare l'esperienza della zona libera che 80 anni fa costruì la sua libertà dal nazifascismo, facendo proprio di Ampezzo la propria capitale. L'invito dell'ANPI era partito ad aprile, ma solo alla fine di luglio la richiesta di materiale informativo e il sopralluogo effettuato dal cerimoniale del Quirinale hanno dato la conferma. Restano ora da definire gli ultimi dettagli di quella che sarà la terza visita di quest'anno in Friuli Venezia Giulia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente ha accolto l'invito a prendere parte il 14 settembre alla giornata clou delle celebrazioni per l'80° anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli, alla quale saranno presenti anche alcuni dei 14 partigiani viventi dell'ANPI e dell'Associazione Partigiani Osoppo Friuli, fra i quali probabilmente Paola Del Din. La cerimonia si inserisce all'interno del progetto 1944-2024 Impronte di Libertà, finanziato da un bando regionale. Cuore delle celebrazioni Ampezzo, che della zona libera fu capitale e che ha supportato l'invito dell'ANPI assieme alla comunità montana in rappresentanza dei 42 comuni della Carnia Libera. Ad Ampezzo Mattarella arriverà in mattinata, le celebrazioni prenderanno il via con la messa cantata con i cori Peresson di Arta Terme e Zare di Sauris. A seguire la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, il corteo e gli interventi del sindaco Michele Benedetti, del presidente della comunità Hermes De Crignis, del presidente dell'ANPI nazionale Gianfranco Pagliarulo, della presidente provinciale Antonella Lestani, del presidente della regione Massimiliano Fedriga e infine di Mattarella. A salutare la celebrazione il coro popolare della Resistenza di Udine con Marco Martinis e la sua Tornerò domani, omaggio ai caduti della Carnia. L'itinerario del Presidente proseguirà con una visita privata alla mostra di Illegio, mentre le celebrazioni dell'anniversario continueranno fino al 12 ottobre con un convegno sui documenti dell'epoca, 3 passeggiate nei luoghi simbolo di quell'esperienza, incursioni teatrali, land art e una conferenza sui diritti umani. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E quelli attuali sono giorni cruciali per molti docenti della regione in attesa della pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso dell'Ufficio Scolastico Regionale. È più facile entrare alla NASA che nella scuola pubblica italiana. Riassume così l'ingarbugliata vicenda delle graduatorie il segretario della CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza, Massimo Gargiulo. Quest'anno la ripresa della scuola sarà più difficile che in passato. Ancora una volta ci ritroveremo con orari provvisori, cattedre vacanti a settembre, continua Gargiulo. Basti pensare che l'Ufficio Scolastico Regionale ha ben 9 diversi bacini da cui attingere i nomi dei professori. L'ufficio lavora molto, ma è dimezzato e non perché siamo nella settimana di Ferragosto. La carenza di organico è cronica. Da ieri ci sono migliaia di docenti che digitano compulsivamente sul sito istanze online per vedere il proprio nome nella lista di chi ha un futuro come insegnante a tempo indeterminato. Il Ministero quest'anno ha stabilito un contingente di 1.004 posti fissi in Friuli Venezia Giulia, ma le cattedre vacanti sono più di 3.000. Perché continuare a mantenere precari pari 2/3 dei docenti per risparmiare la risposta della CGIL. La UIL Scuola ha calcolato però che il risparmio effettivo dello Stato è di appena 700 euro a docente, pari a 140 milioni di euro su scala nazionale. Quest'anno, a causa del grande concorso PNRR di fine 2023, sarà più complicato completare le graduatorie di ruolo e questo rallenterà le chiamate dei precari. Oltre 70 le classi di concorso e finché non arrivano le liste dei vincitori dalle altre regioni, restano i buchi in quelle del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, i vincitori del concorso del 2020, il più difficile di sempre perché si è svolto in piena pandemia, sono bloccati dalle graduatorie del concorso PNRR, graduatorie che al momento non si sa quando saranno completate. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto da rifare alla Camera di Commercio di Pordenone Udine per il concorso per 8 istruttori da impiegare nell'ente con diversi profili, concorso alla cui prova scritta su 434 ammessi si sono regolarmente presentati in 178. A causa però di un errore tecnico riguardante l'identificazione tramite i codici a barre dei candidati non dipendente dalla Camera di Commercio, l'ente si è visto costretto a riprogrammare la prova a lunedì 9 settembre. A spiegare la situazione il segretario generale dell'ente camerale di Pordenone Udine, Maria Lucia Pilutti. Sentiamo. C'è stato un disguido tecnico, non siamo stati in grado di procedere all'abbinamento del codice che viene affidato al candidato nel momento in cui si presenta per la selezione e il codice che è riportato sull'elaborato da presentare. Nel momento in cui abbiamo provato subito dopo il test alla presenza di 3 candidati che sempre vengono chiamati per assistere alle attività di, diciamo, abbinamento, ci siamo resi conto che la società a cui abbiamo affidato questa attività purtroppo aveva distribuito dei codici doppi, quindi per noi era impossibile attribuire il singolo compito a un singolo candidato identificato sempre con un codice. Vi siete mossi subito, c'è già una data per il test scritto da rifare? Sì, c'è già una data, il 9 settembre, abbiamo già riconvocato tutti i candidati, ci siamo scusati naturalmente perché ci rendiamo conto che questo è un grande disagio per loro. È un disagio anche per l'ente perché noi abbiamo bisogno di questo personale e quindi questo mese e mezzo di ritardo che avremo inevitabilmente sarà per noi un costo, anche perché dovremo sopperire in altro modo a questo personale. È un disagio, ma può essere anche un piccolo vantaggio per i candidati perché sanno un po' più precisamente di cosa si tratta. Certamente, verranno riconvocati i candidati che si erano presentati, quindi sanno che il livello del test è quello che hanno già dovuto affrontare. Quindi chi era già preparato è già tranquillo, chi si è trovato un po' impreparato ha un po' di tempo in più per studiare. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà caratterizzata da esodo e controesodo il traffico in autostrada A4 per il ponte di Ferragosto, con 2 giornate classificate da bollino rosso, e cioè venerdì 16 e domenica 18, in aggiunta a 1 da bollino nero, cioè sabato 17 in direzione Venezia. In particolare per la giornata di venerdì 16 in direzione Venezia, al pomeriggio potrebbero verificarsi code a tratti in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Per sabato 17 è previsto il bollino nero per l'intera giornata in direzione Venezia, con volumi di traffico stimato di 180.000 passaggi. In particolare sono attese circa 27.000 auto in ingresso alla barriera dell'Isert, di rientro da Slovenia, da Croazia, dall'est Europa, e 14.000 entrate alla barriera dell'A34 di Villesse. Infine domenica 18 in direzione Venezia si stima il passaggio di circa 170.000 veicoli. Primo bilancio di stagione dell'attività della stazione estiva della Polizia di Stato a Lignano. Non si registrano grosse criticità e da quest'anno gli agenti saranno affiancati per tutto il mese di agosto dai colleghi della Polizia austriaca per interagire con i turisti tedeschi e austriaci presenti nella località balneare. Oltre 2.500 persone controllate, 157 posti di controllo e 6 arresti. Questo è il primo bilancio di stagione dell'attività del posto estivo della Polizia di Stato a Lignano, che dal 1 luglio vigila sulla località turistica con 30 agenti, garantendo la presenza di 2 volanti nelle 24 ore. E il servizio andrà avanti fino al 1 di settembre. Un'attività che si estende a particolari servizi integrati di ordine pubblico, di polizia giudiziaria e di raccolta delle denunce da parte dei turisti, una media di 4 al giorno. Al momento non sono state segnalate grosse criticità legate allo spaccio di stupefacenti e alla tranquillità dei villeggianti, specialmente nelle ore notturne. Alessandro De Ruosi, capo di gabinetto della Questura di Udine. Anche quest'anno la Polizia di Stato è fortemente impegnata nella località di Lignano Sabbiadoro. Sono stati incrementati tutti i servizi come è naturale nella stagione estiva ed è stato aperto il consueto posto di polizia temporaneo proprio presso la località, grazie anche alla collaborazione del Comune di Lignano Sabbiadoro. Con il piano spiagge sicure predisposto dal Ministero degli Interni per quest'estate, Lignano può contare la presenza in alcune giornate di un elicottero della Polizia di Stato per controllare il territorio con una particolare telecamera a bordo capace di individuare e seguire veicoli o persone anche di notte grazie ad un sistema di infrarossi. E ad affiancare agli agenti per tutto il mese di agosto ci saranno anche i colleghi della Polizia austriaca che nel passato erano presenti solamente nei giorni delle festività della Pentecoste. Un servizio reso possibile grazie all'accordo bilaterale italo-austriaco di cooperazione tra le forze di polizia dei due paesi. Marco Frezzini, agente della Polizia austriaca di frontiera. La nostra esperienza è unica, possiamo paragonare il nostro metodo di lavorare a quello italiano e siamo stati accolti benissimo. Anche i turisti di lingua tedesca sono molto grati e ci vedono bene. Lignano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la Polizia Ferroviaria di Trieste ha arrestato nei giorni scorsi due persone. Gli agenti, lo scorso 31 luglio, insospettiti dal comportamento circospetto di un gruppo di uomini lungo i binari della stazione centrale, ha deciso di identificarli. In capo a due di loro pendevano altrettanti provvedimenti di revoca del decreto di sospensione della carcerazione emessi nel 2021 dalla Procura di Latina. I due cittadini comunitari, infatti, erano stati condannati per estorsione e concorso di reato e dovevano espiare ancora 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché pagare una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Sono stati condotti in carcere a Trieste. Il terzo, per il quale non sono emersi precedenti, è stato rilasciato. Sono stati registrati fino a 130 appuntamenti giornalieri in questura di Udine per la richiesta di passaporti. E quelli rilasciati sono passati dagli 11.000 del periodo gennaio-giugno del 2023 e 17.000 di quest'anno. La questura del capoluogo friulano ha sottolineato come, in linea con le direttive ministeriali negli ultimi mesi, la divisione polizia amministrativa abbia potuto contare su un significativo aumento di personale proprio per soddisfare le numerose istanze dell'utenza. Dopo i tempi lunghissimi di attesa dello scorso anno, è ora possibile prenotare un appuntamento già nel giorno successivo a quello della richiesta, ottenendo il rilascio del passaporto in tempi rapidi e comunque non oltre 15 giorni. Alle 12:42, uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione. Alle 11 c'erano 30 gradi a Trieste, mare quasi calmo, con temperatura di 29 gradi. A Gorizia 34 gradi, a Pordenone 32, a Udine 31 gradi. A Tolmezzo 29 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e a Tarvisio 27, a Sappada 25 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo Cavallo 24 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 22 gradi, sul Lussari 20. Sulla costa Lignano 31 gradi, a Grado 30. La temperatura del mare nelle due località è di 30 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sera, nelle zone al confine con il Cadore, saranno possibili rovesci o temporali che non si esclude del tutto, possono interessare anche alcune zone della pedemontana. Temperature ancora molto elevate, specie in pianura, nel pomeriggio caldo afoso in serata sulla costa. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione dopo la Liguria per incidenza del valore aggiunto dell'economia del mare sul totale dell'economia. Il dato è quasi interamente spiegato dal contributo di Trieste, che nella graduatoria provinciale per incidenza del valore aggiunto della Blue Economy sul totale si classifica al primo posto con il 18,9%. Gli occupati della Blue Economy in regione incidono per il 5,5%. 5,2% del totale degli occupati, contro una media nazionale del 4,1%. Sono i dati aggiornati del report sull'economia del mare prodotto dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che mette in evidenza come in Friuli Venezia Giulia le imprese del variegato comparto siano 4.030, 1.849 a Trieste, 1.281 a Udine, 785 a Gorizia e 115 a Pordenone. Complessivamente occupano 28.792 addetti. L'economia del mare, analizzata dall'ente camerale friulano, spazia fra i vari settori produttivi, di cui la maggior parte è prodotta dalla movimentazione di merce, passeggeri e dalla cantieristica, a cui seguono l'alloggio e la ristorazione, le attività di ricerca, la tutela ambientale, poi la filiera ittica e le attività sportive e ricreative. In Friuli Venezia Giulia nel 2023, ha precisato il presidente Giovanni Da Pozzo, le imprese dell'economia del mare hanno inciso per il 4,1% delle imprese della regione, contro una media italiana del 3,8%. A dicembre dello scorso anno sono state contate in regione 395 sedi di impresa dell'industria cantieristica, 31 di commercio di imbarcazioni da diporto, natanti e accessori, 72 di trasporto marittimo, 5 di noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, per un totale di 503 sedi di impresa. Nel 2023 l'export dal Friuli Venezia Giulia di navi e imbarcazioni è stato di circa 2 miliardi di euro. E adesso parliamo dello stato delle acque del Friuli Venezia Giulia, che è stato promosso da Goletta Verde, che a Monfalcone ha però anche segnalato ancora una volta le criticità del depuratore di Lignano, finito più volte sotto la lente degli ambientalisti. Goletta Verde ha chiuso il suo periplo d'Italia in Friuli Venezia Giulia. I volontari dello schooner formati dall'ufficio scientifico della Goletta hanno campionato le acque della regione in 9 punti, di cui 6 spiagge: Schiana, Lanterna, Barcola, Lignano, Marina Giulia e 3 foci di fiume, cioè l'Isonzo, lo Stella e il Tagliamento. Tutti promossi. C'è però una criticità evidenziata dai campioni che sono stati analizzati sempre in laboratori terzi e quindi indipendenti. La criticità riguarda la qualità dell'acqua nella laguna di Lignano, che dimostra come l'impianto di depurazione della località balneare funziona in modo insufficiente. Sandro Carnieluti, presidente di Lega Ambiente FVG, ha spiegato che si tratta di un problema da affrontare assieme alle istituzioni con interventi a lungo termine, in modo che ci sia il recupero delle acque reflue e che si facciano degli interventi che intercettino le acque bianche prima che arrivino al depuratore stesso. Per fare questo, dice, ci vogliono interventi sull'urbanistica delle città che riducano la cementificazione. Monfalcone, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una vetroresina riciclabile per costruire imbarcazioni e turbine eoliche sostenibili è stata progettata da una start-up attiva a Monfalcone, per la quale ora sono in arrivo importanti investimenti. Più del 90% delle comuni imbarcazioni da diporto è costruita in vetroresina, materiale composito che contiene dal 30 al 70% di vetro associato a diversi tipi di resine, come il vinilestere, il poliestere o l'epoxy. Questi due componenti, una volta mixati e strutturati in forma solida, non possono più essere separati e quindi riciclati, costituiscono perciò un fattore impattante per l'ambiente. La startup Northern Light Composites, con sede a Trieste e laboratorio operativo a Monfalcone, ha brevettato un materiale che combina resine termoplastiche e fibre di lino, che possono invece essere separate e recuperate alla fine del loro ciclo di utilizzo. Con questa tecnologia ha realizzato lo scafo Eco Racer 30, barca a vela manifesto del progetto ecologico. Andrea Paduano, direttore tecnico della Northern Light Composites. Quello che proponiamo noi non è qualcosa di completamente diverso, è semplicemente una evoluzione di quello che esiste già. Non andiamo a sconvolgere la catena produttiva o i materiali utilizzati, utilizziamo soltanto una resina diversa che può essere riciclata. È un problema noto che nel campo della nautica molte barche in vetroresina giacciono in stato di semiabbandono perché non conviene riciclarle, non conviene smaltirle, economicamente non è sostenibile. Con la nostra proposta, invece, creiamo un circuito virtuoso, chiuso, in cui le materie prime possono essere completamente riciclate per creare nuove barche. Ma stiamo lavorando anche in altri ambiti molto più ampi, come quello automotive, quindi parti di carrozzeria per auto e moto, ma anche altri ambiti come le energie rinnovabili, pale eoliche, boe idroelettriche e così via. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. A settembre partirà un altro lotto per la rimozione di una parte dell'amianto sparpagliato nel greto del Cellina. L'operazione è stata affidata al consorzio di bonifica Cellina Meduna e riguarderà un braccio di alveo compreso tra i comuni di Maniago e Montereale. Il budget complessivo stanziato dalla regione supera di poco gli 850.000 euro. È molto probabile che i fondi a disposizione consentano la pulizia di 2 o 3 cumuli al massimo del pericoloso composto industriale. Si intitola L'Arciduca e l'Arpeggione, l'esibizione del pianista Alexander Serdar, di cui in sottofondo state ascoltando l'interpretazione del concerto per pianoforte numero 5 di Beethoven, in cui sono in programma musiche del compositore ottocentesco tedesco, tra cui il trio opera 97 detto Arciduca, con Anna Kandinskaya al violino e Paolo Andriotti al violoncello. Altra composizione in programma, la sonata detta Arpeggione di Franz Schubert, così chiamata perché realizzata per uno strumento a cui era stato dato questo nome, con la partecipazione della violista Astis Valdismar Dottir e di Andrea Rucli. Appuntamento a Cividale del Friuli, nel chiostro del monastero di Santa Maria in Valle, alle 21. Prima di chiudere, un ultimo appuntamento, terzo appuntamento di Carnia, Ruota Libera, la rassegna itinerante organizzata dall'ERT, l'ente teatrale regionale, con la comunità di montagna della Carnia e la collaborazione dei comuni della Carnia. Alle 18 andrà in scena Il Campione e la Zanzara, spettacolo in bicicletta dedicato al grande campione Fausto Coppi. La partenza è prevista dalla centrale a biomassa in località Braidonza ad Arta Terme e la conclusione al campo sportivo di Zuglio. Il percorso è di circa 4 chilometri e lo spettacolo è indicato per bambini di tutte le età muniti della propria bicicletta. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Samuel Montalto, Mauro Ciccarelli e Federico Comar. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia: alle 14 il telegiornale sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica invece su queste frequenze di nuovo alle 15. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.